9 in punto. E buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a 9 in punto. Si sentite una voce inedita per questa trasmissione, sarò con voi oggi e domani, poi lunedì ci sarà Alessandro Milan. Andiamo qualche giorno di riposo al nostro Oscar Giannino, che salutiamo con affetto. Ma di cosa parliamo questa mattina, che cosa vi proponiamo? Allora, sono già stati versati fiumi di inchiostro, ma anche di parole, su un tema che ha tutta l'intenzione di surriscaldare il clima, non tanto quello meteorologico quanto quello politico, il che è tutto dire visto che stiamo andando verso l'estate. Parliamo di uno dei nostri più grandi tesori, i chilometri e chilometri di spiaggia che fanno da contorno al nostro stivale. Avrete letto negli ultimi giorni dell'approvazione del decreto sviluppo, con tutte le misure pensate per ridare slancio e sostegno alla ripresa della crescita economica del paese. E cosa contiene questo provvedimento, almeno nella versione originale, appunto approvata ad inizio maggio? In uno dei primi articoli, esattamente all'articolo 3, spiagge concesse per 90 anni alle imprese, con la possibilità di costruire edifici e di ristrutturare quelli esistenti. Tutto questo con l'obiettivo di incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano. Ma di quali imprese stiamo parlando? Di quelle che ci sono già, quelle che gestiscono già i tratti di spiaggia con i propri stabilimenti balneari e che possono farlo adesso grazie al sistema attualmente vigente, che prevede concessioni di 6 anni rinnovabili automaticamente alla scadenza. Allora, è sicuramente difficile entrare nella sua bravura e nelle sue competenze, ma so già quale sarebbe la fermissima presa di posizione di Oscar Giannino. Io non sono d'accordo, la gestione e la concessione delle spiagge in uso ai privati deve essere oggetto di gara, quindi passare attraverso una vera e propria privatizzazione. Lo Stato non può intervenire in modo così invasivo, decidendo chi debba avere la proprietà di queste aree, che poi non è una proprietà, perché qui poi entriamo nel campo piuttosto complicato del diritto privato, ma un diritto di superficie, tra l'altro campo complicato anche dal fatto che parliamo della gestione del demanio. Abbiamo appreso peraltro che ci sono dei modelli europei anche un po' più dirompenti in termini di presenza dello Stato, come quello francese, dove mi hanno raccontato addirittura, poi speriamo di dire le cose corrette, che i gestori degli stabilimenti sono tali, gestiscono e basta. Se si rompe una veranda del proprio stabilimento, interviene addirittura a sistemarla un operaio del comune o della provincia, o comunque insomma dell'ente pubblico. In ogni caso, quello a cui vogliamo arrivare che cos'è? Che la norma originariamente intesa è stata bersagliata dalle critiche, dai rilievi anche di natura formale del capo dello Stato, che in alcuni punti non ne ravvedeva il carattere di necessità ed urgenza, e allora i rilievi sono stati recepiti e, secondo quanto già da ieri spiega il Sole 24 Ore, le modifiche auspicate ci saranno. Vedremo quali sono, se le modifiche accontentano, a parte il Colle, anche chi il provvedimento lo contesta duramente in tutto l'impianto. E mentre siccome chi invece l'ha pensato varato pensa che questo sia un modo per rilanciare ed incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, noi cercheremo di capire stamattina anche in che modo questo può avvenire. Prima di tutto vi dico che, come sempre, potete intervenire all'800 24 00 24. La vostra opinione su questo argomento ci interessa molto, perché chiaramente parliamo di un fiore all'occhiello del nostro turismo, quindi in qualche maniera un po' tutti siamo coinvolti anche in questa questione. E stamattina sentiremo prima di tutto per qualche minuto Dino Pesole del Sole 24 Ore, nostro quirinalista, chiamiamolo così. Dino, buongiorno. Buongiorno. Allora, poi sentiremo le associazioni le associazioni ambientaliste, sentiremo appunto anche i rappresentanti dei balneari e sentiremo anche qualche esponente politico. Allora, come tu già, Dino, anticipavi ieri sulle Sole 24 Ore, devo dire che questa mattina anche la stampa ti riconosce che la tua indiscrezione di ieri ha creato un cortocircuito istituzionale sull'asse Palazzo Chigi Tesoro Quirinale, come se già non ce ne fossero a sufficienza. Questa mattina appunto tu scrivi sul Sole che questa annunciata, auspicata da molti, manutenzione per il decreto sviluppo ci sarà. Ci puoi dire in qualche maniera sul tema delle spiagge come si intende intervenire? Sì, questo è un tema complesso, come tu dicevi, e dunque richiede anche un supplemento di istruttoria piuttosto articolato. Allora, il capo dello Stato, attraverso i suoi uffici giuridici, ha fatto sapere al governo che chiede chiarimenti su questa norma. I chiarimenti sono in arrivo e riguarderanno con ogni probabilità la modifica di questo termine dei 90 anni. Questa sicuramente è una notizia importante, anche se ancora non si sa, e il governo ancora non l'ha deciso, quale sarà il nuovo tetto, perché come tu spiegavi poco fa, si parte dall'attuale regime dei 6 anni rinnovabili automaticamente per arrivare alle concessioni di 90 anni. Allora, il problema perché Napolitano e i suoi uffici hanno posto all'attenzione del governo è anche quello, anzi forse soprattutto quello, del possibile conflitto, della possibile procedura di infrazione che potrebbe essere elevata nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea. Peraltro, lo ricordo, noi siamo già in procedura di infrazione, sì. E dunque il commissario al mercato interno, Barnier, ha già fatto sapere attraverso il suo portavoce che anche la Commissione chiede chiarimenti su questo punto, perché ci sono i dubbi e le perplessità sul fatto che possa violare la direttiva Bolkestein del 2006 sulla liberalizzazione dei servizi. Allora, questa è una questione piuttosto seria, e poiché appunto incide anche i rapporti tra l'Italia e l'Unione Europea, il Capo dello Stato ha chiesto chiarimenti. E quello che sappiamo, il governo ci sta lavorando, il Ministero dell'Economia sta mettendo a punto le relative modifiche che dovrebbero appunto interessare semplicemente il nuovo tetto, anche se il meccanismo di per sé verrebbe salvaguardato. Adesso poi questo non so se basterà a Napolitano, immagino di sì, poi però si aprirà comunque un tavolo di confronto con l'Unione Europea, che dovrà essere però preventivo, perché se Bruxelles lo autorizza e il governo dovrà intervenire in sede di conversione del decreto. Anche perché stavo immaginando, Dino, anche se fosse modificato questo tetto, se da 90 anni si passasse a 60, 50, sì, 40, comunque questo non cambia la sostanza del conflitto con la direttiva Bolkestein. È appunto il punto che citavi. E quindi ora bisogna vedere il nuovo meccanismo, cioè, se il governo intende mantenere in ogni caso il meccanismo giuridico che è alla base di questa nuova norma, in ogni caso si apre un problema con Bruxelles. Quindi il ministro Tremonti dovrà andare a Bruxelles e contrattare con le competenti autorità e il commissario e vedere se questa norma può passare, se no va modificata. E infatti, insomma, il tema è cercare di capire quale sarà lo strumento più idoneo, come anche su questo tu intervieni stamattina sul Sole 24 Ore, per rendere tutto l'impianto della norma più digeribile alla Commissione europea, che attende appunto chiarimenti sulle novità contenute nel provvedimento. Dino, poi ti lascio, hai idea di quando avremo più o meno notizia più precisa sul tetto del diritto di superficie? Penso che questa novità dovrebbe arrivare abbastanza rapidamente, tra oggi e domani, considerando che oggi il Capo dello Stato è a Firenze, tornerà in serata, immagino che domani potrà firmare il decreto, anche perché Napolitano non ha certo sollevato dubbi sulla totalità del decreto, ha eccepito su alcuni punti, e poiché questo è ancora formalmente una bozza di decreto legge, approvato una settimana fa ma non ancora operativo perché non ha ottenuto il via libera del Quirinale, si può ancora modificare, ecco, è quella sorta di zona grigia che è tra il varo da parte del Consiglio dei Ministri e il via libera del Quirinale. In genere intercorre appunto una settimana, in questa fase si possono operare dei correttivi. Io credo che tra oggi e domani dovremmo avere questa notizia, e quindi insomma attesa febbrile sia per le associazioni ambientaliste che soprattutto per i gestori degli stabilimenti. Dino, grazie e buona giornata intanto. Buona giornata a voi, grazie. E io saluto Renato Papagni, presidente di Asso Balneari, buongiorno, che è anche il gestore di uno stabilimento molto noto sul litorale romano, il Tibidabo, mi sbaglio? Oggi le dune. Beh, io sa com'è, non frequento molto quei posti, per cui non lo sapevo, ma in ogni caso non cambia la sostanza, lei comunque ha in gestione un bel tratto di spiaggia del litorale romano. Non c'è dubbio, certo. Una concessione che viene dal 1931, quindi è qualche cosa di storico. Ecco, quindi insomma lei sarebbe ovviamente, anche perché questo è un provvedimento che voi operatori del settore auspicavate e cercavate da tempo, lei peraltro, anzi, ho trovato una sua intervista rilasciata a Report, dove diceva che sapeva già da un bel pezzo che il governo sarebbe andato sulla strada di concedervi l'esercizio del diritto di superficie novantennale. Sì, certo, era una proposta già varata nel 2009, l'abbiamo portata e mandata al ministro Tremonti, l'abbiamo poi presentata nelle varie sedi opportune allo stesso ministro Brambilla, quindi nel 2010, quindi è una cosa sulla quale stiamo lavorando da tempo e crediamo che sia la soluzione definitiva a questo bailamme di regole, regolette e incertezze che ci sono nell'ambito del demanio marittimo. Senta, ma mi spiega adesso esattamente come funziona l'attuale regime e perché voi invece vorreste questo esercizio del diritto di proprietà, che comunque è un diritto di superficie, sì, mi scusi, mi sono sbagliata, che però è molto simile alla proprietà, solo che però, parlando ovviamente di demanio dello Stato, non può esservi concesso proprio il regime di proprietà, a meno che non ci sia la gara e quant'altro. Poi su questi punti, che sono complicati, ci arriviamo. Però, sì, prima di esprimere commenti sulla norma e anche sulle eventuali modifiche che il governo dovrà fare per i rilievi che gli sono stati mossi, ci spiega bene come funziona adesso questo regime delle concessioni che vi vengono rinnovate automaticamente ogni 6 anni? No, non ci vengono più rinnovate. Allora, i regimi sono di 2 tipi: o si va a concessione per 6 anni, e veniva con una vecchia norma rinnovata in maniera automatica fin tanto che non è partita l'infrazione della Comunità Europea, e quindi tutte queste concessioni scadono definitivamente nel 2015. Sì. E quindi concessioni a 6 anni che scadono tutte nel 2015, oppure concessioni pluriennali previste dal codice della navigazione, quindi è una storia che viene ormai da anni, e che in funzione degli investimenti il titolare della concessione può ottenere, in questo caso oggi, fino a 20 anni, fino al 2005 invece questa era possibile averla fino a 30 anni. E quindi chi fa investimenti e mette in proprietà dello Stato, perché non ci dimentichiamo che poi tutti i fabbricati e tutte le realizzazioni che noi facciamo divengono automaticamente di proprietà dello Stato, e quindi mettono economie, trasformano e migliorano in proprietà dello Stato, hanno un periodo concessorio più lungo e quindi hanno la capacità di programmare investimenti, qualità, tutto quello che poi è stato fatto in moltissime realtà italiane, da Legnano Sabbia d'Oro al Friuli, alla Toscana, al Lazio, alla Puglia e così via. Quindi c'è questo doppio regime, moltissimi, quindi l'80-85% sono in regime di 6 anni e quindi scadono tutti nel 2015, gli altri hanno delle concessioni che vanno oltre il 2015 per gli investimenti fatti significativi su un piano d'ammortamento, quindi su un business plan che dà la caratura del tempo. Quindi diciamo che in primo luogo la nuova norma tenderebbe a voler rendere un po' omogenea, no, la situazione, rendere la situazione. Lei, Papagni, sotto quale regime opera? Io sono su quello pluriennale, perché la mia concessione viene dal 1931 da una concessione pluriennale, andata avanti con concessioni pluriennali, perché è un investimento importante, viene da un vecchio progetto dell'architetto del Debbio, 1931, quindi ventennio, in cui si faceva già in questo modo, cioè non si davano dei piccoli pezzettini di spiaggia avulsi da un programma, c'era un sistema pianificatorio delle aree demaniali, si facevano dei bandi, io ho fatto un bando pubblico, io ho vinto il bando pubblico per poter avere una concessione che oggi ho a 25 anni, cioè io ho fatto una gara. Quindi esiste già un sistema di gare che potrebbe permettere appunto ai gestori quindi di vedersi attribuire. Sicuramente il sistema di gara con la pubblicazione, con l'evidenza pubblica, con la pubblicazione sulla Gazzetta Europea, quindi cioè voglio dire noi siamo abituati ad avere questa evidenza pubblica. Che cosa cambierebbe con il regime novantennale che potrebbe essere di 60 anni, 50 anni a seconda delle modifiche? Noi abbiamo fatto una proposta a 50 anni, quando abbiamo fatto la nostra proposta era proprio a 50 anni, un diritto di superficie a 50 anni. E chi l'ha spuntata allora a 90? Accidenti, questa non la sapevo. Che comunque gli operatori del settore ne hanno proposti 50, comunque questo è un altro aspetto. Che cosa cambierebbe con voi con questa nuova situazione? Ma cambia che abbiamo una certezza di un lungo periodo di investimenti, abbiamo la possibilità di creare poi quei comparti, quei grandi consorzi che possono a questo punto mettere in campo anche opere che sono opere pubbliche, opere di difesa, infrastrutture, i sistemi turistici balneari di cui Tremonti aveva già dato comunicazione ancora prima del decreto, quindi diciamo che c'è una trasformazione profonda del sistema balneare. Allora, possibilità prima di tempi, programmi, investimenti, certezza del periodo concessorio, ma questo serve per le imprese italiane, ma serve anche per un modo più aperto, più europeo, di far venire partecipazioni di capitali stranieri che a questo punto hanno certezza sugli investimenti. Benissimo, Papagni, noi tutti questi aspetti chiaramente li comprendiamo benissimo, c'è già anche qualche suo collega che vuole intervenire per esprimerci la stessa identica considerazione. L'altra contestazione grossa che però vi viene mossa, e adesso credo che le associazioni ambientaliste appunto la vorranno sollevare, che anche per queste concessioni però pagate pochissimo allo Stato e di conseguenza è chiaro che non volete assolutamente rinunciare ad un regime di concessione che si possa estendere il più a lungo possibile. Prima di sentire però lo saluto, per essere magari gentile almeno con lui, Sebastiano Venneri, vicepresidente di Legambiente, buongiorno. Buongiorno, ben trovato. Grazie per essere con noi. Guardi, le faccio sentire, poi devo già andare alla prima pausa, una riflessione di un ascoltatore, poi sento anche lei, Venneri di Legambiente. Sentiamo Diego da Savona. Diego, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, chiamo da Savona, Pietra Ligure. Sì. La nostra è una piccola azienda familiare che gestisce appunto uno stabilimento balneare. Mi trovo d'accordo con la vostra ospite, quindi uno dei suoi punti di vista era lo stesso mio, quello del rientrare da un investimento magari fatto da poco. Eh beh, vede un po', lei è il presidente di Asso Balneari, ci mancherebbe, sì, pure che ci dicesse il contrario, Diego. Certo. No? Invece, allora, un altro punto di vista che invece sento spesso parlare dei rischi connessi a questo nuovo decreto che entrerebbe in vigore, ma non sento mai parlare dei rischi che invece ci sarebbero se entro pochi anni le licenze andassero a gara pubblica, ad asta. In quel caso penso che sì, ci sarebbero dei rischi di edificazioni massicce, perché essendo il litorale italiano un bene limitato, è chiaro che se lo potrebbero giudicare dei gruppi economici che hanno possibilità finanziarie enormi, certo. E soffiarlo io conosco solo la realtà ligure, non conosco quella del Lazio, dell'Emilia Romagna, ma penso che qui ci sarebbe veramente il rischio che venissero aggiudicati a imprese, non so, mi viene in mente Autogrill o insomma addirittura grandi multinazionali che possano mettere addirittura sulle spiagge si vedrebbero magari delle specie di autogrill uniformizzati lotti di chilometri e chilometri della stessa proprietà, con gestori tipo con l'uniforme come nei fast food. Diego, è molto interessante il suo punto di vista, guardi, non vedo l'ora di metterlo a confronto con chi invece il provvedimento della concessione di 90 anni o qua o un po' meno, perché andremo su questa strada, lo contesta duramente, e vediamo se su questo punto per esempio potete avere una visione comune. 800 24 00 24, numero verde ancora per continuare i vostri interventi, fra pochissimo con il vicepresidente di Legambiente ma anche con altri due esponenti politici di ovviamente visione nettamente contrapposta, chi questo provvedimento l'ha voluto e chi invece ancora lo contesta duramente. A tra poco. Eccoci ritrovati in diretta questa mattina 9 in punto con Deborah Rosciani. Stiamo parlando della parte del decreto sviluppo che riconosce l'esercizio del diritto di superficie ai gestori degli stabilimenti balneari, anche se, come avete sentito nella prima parte della trasmissione, dobbiamo ancora verificare quale sarà il tetto temporale che il governo fisserà, perché il tetto inizialmente previsto era quello dei 90 anni, ma ci sono dei rilievi mossi dal Quirinale. Il governo sta lavorando per apportare delle modifiche, anche perché a prescindere dal rilievo del Colle il tema è che questa formulazione di questo provvedimento è in palese conflitto con la direttiva comunitaria Bolkestein del 2006, quella sulla liberalizzazione dei servizi. Una questione molto complessa, perché parliamo anche di demanio dello Stato e quindi una gestione piuttosto complicata, però prese di posizione anche molto differenti. Abbiamo sentito le ragioni e la felicità per il provvedimento, almeno nell'impostazione attuale, dei gestori degli stabilimenti balneari. Adesso invece andiamo a chi la pensa in maniera radicalmente opposta. Ho promesso ovviamente il primo intervento al vicepresidente di Legambiente, Sebastiano Venneri, che risaluto. Venneri, ci sono molte dichiarazioni dei giorni scorsi anche del presidente della vostra organizzazione che dice: siamo arrivati ad un punto così basso in cui il paese viene smembrato e dato in pasto a criminalità e speculatori privatizzando il patrimonio costiero. Siete così duri? Non ne riconosce le ragioni degli stabilimenti balneari, dei gestori degli stabilimenti? Ha sentito prima Papagni, no? Cosa diceva? Certo, lo conosco bene. Ma noi riteniamo che questo provvedimento configuri una privatizzazione di fatto del bene pubblico per eccellenza, che è il demanio. Infatti si sono dovuti inventare questa formula del diritto di superficie, che configura una proprietà di fatto, perché averlo per 90 anni significa sostanzialmente averlo per un periodo così lungo, per cui è, per quanto ci riguarda, una proprietà del bene pubblico per eccellenza, il demanio. Non si chiama patrimonio dello Stato, perché nella parola patrimonio c'è un concetto di proprietà che è avulso dal demanio. Il demanio è il bene pubblico per eccellenza, come se non fosse neanche proprietà dello Stato, è il bene pubblico. Ora, cosa succede secondo noi? L'ha spiegato molto bene Papagni e io sono paradossalmente d'accordo con lui. Avere davanti una prospettiva, d'accordo ovviamente nello scenario che prospetta, avere davanti una prospettiva di investimento a 90 anni significa potersi permettere tutta una serie di investimenti massicci, come Papagni ha fatto per il suo stabilimento, che ci faranno scordare lo stabilimento balneare come l'abbiamo conosciuto finora. Se uno ha 6 anni davanti, costruisce un chioschetto, costruisce un ristorantino, vende un po' di sedie a sdraio, eccetera. Papagni, lo stabilimento Le Dune, gli ascoltatori per radio non abbiamo immagini, ma immaginate, io lo chiamo una sorta di piccolo Caesar Palace di Las Vegas a Ostia. Però... Nel senso che dentro c'è la palestra, il centro fitness, sì, una grande piscina, le boutique. Mi ha rubato un po' il mestiere, perché io poi queste informazioni le avevo trovate, le volevo dare senza voler mettere in difficoltà Papagni, che mi è molto simpatico peraltro, no, e volevo proprio dare anche conto di tutta la costruzione del suo stabilimento. Poi adesso pare che sembra che vogliamo mettere in croce lui, ma come dire, di situazioni simili ce ne saranno tante sul territorio. Il problema è che rispetto a quello che è riuscito a mettere in piedi, la quota di denaro che versa per questa concessione allo Stato ogni anno sembra irrisoria. Poi magari ce la facciamo spiegare direttamente. Veneri. Quello sicuramente, però ripeto, lì si può alzare il canone, si deve alzare il canone, cosa che non è riuscito a fare nessuno, voglio dire, né Rutelli né Tremonti a suo tempo, eccetera, nessuno è riuscito ad alzare questo canone. Si può fare. Il rischio che io vedo è appunto una sorta di gigantismo per il futuro degli stabilimenti balneari, dove il mare è l'ultimo dei problemi, è solamente un motivo per avere il diritto di superficie. Dopodiché lo stabilimento dell'amico Papagni impiega credo una 40 di persone, quello di Briatore ne impiega 100, sono medie aziende ormai che non hanno più nulla dello stabilimento balneare come noi intendiamo, su un terreno che, ripeto, è bene pubblico. Ma se i clienti sono contenti, se la spiaggia è pulita e gestita bene, e vengono rispettati tutti i requisiti anche di igiene, cioè, qual è il problema? Ci sono due ordini di problemi. Primo, che si snatura uno dei territori più delicati come il litorale costiero del nostro paese, dove secondo noi non deve essere realizzato nulla. Non a caso quando si parlava di concessioni si parlava di strutture facilmente amovibili. Adesso, ripeto, una piscina, la palestra, il centro fitness e quant'altro sono strutture irremovibili, e quindi tali resteranno per secoli e secoli sul territorio più pregiato, peraltro, che naturalmente ognuno vorrebbe avere a disposizione nei suoi piani regolatori come terreni edificabili. Qui adesso, come dire, vorrei fare anch'io l'imprenditore, se mi permettete, nel momento in cui si paga molto poco, c'è una certezza di diritto di superficie su un territorio pregiatissimo come il litorale per 90 anni, ditemi dove si firma e smetto di fare l'ambientalista. E perché no? Magari può mettersi insomma dalla parte contraria, magari potrebbe scoprire un mondo interessante. Guardi Veneri, le chiedo di fermarsi un attimo, adesso ho due politici, tra l'altro la prima devo anche lasciarla in tempi piuttosto rapidi. Elisabetta Zamparuti, deputata radicale in Commissione Ambiente, buongiorno. Buongiorno a lei, un saluto a Sebastiano Veneri, ecco, e agli ascoltatori. Credo che un po' la sua posizione Veneri l'abbia già espressa. Voi avevate rivolto, forse lei direttamente l'ha fatto, un'interpellanza al Presidente del Consiglio per chiedere di riesaminare il decreto sviluppo. Proprio addirittura avete chiesto la cancellazione di questo famoso articolo 3 del quale stiamo parlando dall'inizio della trasmissione. La strada verso la quale si sta andando, la modifica che verrà probabilmente fatta alla misura, vi accontenta o appunto ancora perseverate nella richiesta della cancellazione integrale del decreto, dell'articolo 3 del decreto, onorevole Zamparuti? Ma l'articolo 3 per me va cancellato perché è in palese contrasto, l'avete anche detto, rispetto alla direttiva Bolkestein che riguarda la concorrenza nel mercato interno europeo. Allora, io trovo davvero paradossale che una misura che vorrebbe rilanciare il turismo in un'ottica economicistica vada a confliggere platealmente con quelle che sono le norme europee, perché di tutta evidenza noi ci troviamo di fronte ad un escamotage che si chiama diritto di superficie, che però per la durata, parliamo di 90 anni, impedisce assolutamente qualsiasi dinamica concorrenziale, perché in un periodo così lungo uno appunto magari edifica, costruisce, ma di certo non ha una dinamica tale da permettergli di garantire un servizio efficiente. Ma questa norma preoccupa anche perché poi noi sappiamo dell'esistenza anche di un piano di realizzazione di porti molto massiccio, molto invasivo delle nostre coste, rispetto al quale di tutta evidenza l'introduzione di un diritto di superficie sui beni del demanio ovviamente è legato a questo piano di sviluppo portuale in modo tale da creare tutte quelle infrastrutture che serviranno a ulteriormente cementificare in realtà le nostre coste. Ecco, detto questo, però, adesso a parte il fatto, appunto, tutte le sollevazioni, tutte le considerazioni che mi fa, che sono anche fondamentalmente di natura ambientalista, le chiedo, secondo lei, però, il regime attuale di concessione della gestione delle spiagge, secondo la formulazione attuale, andrebbe modificata o no? A parte, come dire, la direzione verso la quale si sta andando, che contestate, che non vi piace e quant'altro? Ma è già stata la Commissione europea in realtà rispetto alla normativa italiana a mettere in mora per ben due volte l'Italia, perché già il sistema di concessione è eccessivamente lungo e confligge già con la normativa europea, quindi è evidente che questa ulteriore introduzione di un diritto di superficie di 90 anni è inaccettabile. Benissimo, onorevole Zamparutti, la ringrazio per essere stata con noi, so che ci deve lasciare, avrei dovuto mandarle in onda alle 9.30 per impegni precedentemente presi, ma comunque abbiamo capito la sostanza della presa di posizione anche del Partito Radicale, appunto, in Commissione Ambiente. Detto questo, prima di andare all'onorevole Gianluca Pini, che saluto, buongiorno. Vicepresidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea alla Camera dei Deputati, sentirei anche un'altra considerazione contraria al primo gestore di stabilimenti che ci ha chiamato in precedenza, se non mi ricordo male dalla Liguria, non me lo ricordo. Andiamo invece adesso a Roberto da Massa Carrara, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ci dica. Niente, io volevo fare una considerazione. Questi signori sono anni che per le concessioni non pagano niente, praticamente cifre irrisorie. Quando si sa bene che stagionalmente incassano migliaia e migliaia di euro, dico, io ne sono testimone diretto e anche altri conoscenti. A fronte di ciò, questa lobby che è collegata alla politica continua sempre nei soliti intenti, a discapito delle categorie più deboli. Tanto per capirci, i ricchi diventano più ricchi, i poveri diventano sempre più non sa quanti messaggi che mi stanno arrivando sulla situazione di Flavio Briatore. Devono finire di menare il camperlaia. Però non sono tutti Briatore, vabbè. Ha capito, cioè Briatore è qualche politica che è socia con Briatore. Quindi dietro ci sono delle lobby politiche che muovono tutto il sistema. Però se la gente ha la narcotizzazione cerebrale mediatica e continua ad averci questa praticamente narcotizzazione e non si sveglia, continueremo sempre nella solita sporca politica riciclata. Ecco qual è il problema. Va bene, il problema è quello. Roberto, abbiamo capito perfettamente, i concessionari degli stabilimenti, come per tutte le categorie economiche, hanno la loro lobby che li rappresenta ovviamente nei tavoli istituzionali, devono portare avanti i loro interessi economici e quando ovviamente si presentano le necessità portano avanti le loro istanze e giustamente e lo devono fare, siccome poi tutto passa attraverso il governo e il Parlamento, perché insomma le leggi escono da là, è chiaro che le loro considerazioni devono portarle per bocca di politici e quindi insomma ecco le lobby si costruiscono in questa maniera, ho detta in maniera molto, molto semplice, però insomma la sostanza è questa. Ci fermiamo, suggerimenti perché in viaggio, poi andiamo avanti con la nostra considerazione tra poco. Allora, l'onorevole Gianluca Pini, parlamentare della Lega Nord, ma è soprattutto vicepresidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea alla Camera dei Deputati, parlamentare romagnolo se non ho capito male, quindi lei rappresenterà gli interessi di un sacco di gestori di stabilimenti balneari di quella bellissima zona costiera del nostro paese, vuole proteggere, visto che lei ha comunque sponsorizzato questo provvedimento, le spiagge della Riviera Romagnola dall'arrivo di multinazionali miliardarie che sono pronte a cementificare tutto, come diceva qualche ascoltatore all'inizio della trasmissione, onorevole Pini? Sì, no, voglio difendere un modello turistico che non è solo quello romagnolo, anche se quello romagnolo di fatto rappresenta circa un quinto in termini di concessioni di tutte quelle che sono le 28.000 concessioni attualmente esistenti in Italia. Però mi permetto di fare una premessa, sì, perché c'è molta confusione, secondo me anche ci sono molti esercizi di ipocrisia sul tema, perché tutti si richiamano a questa benedetta direttiva Bolkestein, alla normativa comunitaria in violazione, però secondo me pochi o nessuno ha letto che cos'è questa direttiva cosiddetta servizi. È una direttiva che serve a stimolare la concorrenza. Ora, uno dei paletti posti dalla direttiva Bolkestein, che evidentemente in fase di trattazione con i vari stati membri da parte italiana non è stato tenuto in debita considerazione, parla di concorrenza e parla di evidenza pubblica nel momento in cui le disponibilità naturali presenti negli stati membri non siano sufficienti a garantire un libero accesso da parte di chi vuole esercitare un'attività economica sul mercato. Qui stiamo parlando, visto che in Italia ci sono 8.000 chilometri di coste e 4.000 solamente sono fruibili, perché il resto sono scogli, rocce, certo, insomma, cose non disponibili, indisponibili. Stiamo parlando su 3.600 chilometri di spiagge effettivamente disponibili, di concessioni che insistono su 900 chilometri. Quindi i restanti 2.007 sono totalmente ancora liberi. Quindi se dobbiamo veramente applicare in termini di principio quello che è la possibilità di chiedere ulteriori concessioni e quindi sviluppare la concorrenza, che è uno dei tre pilastri che richiama la direttiva, siamo proprio nell'esatto opposto di ciò che diceva Legambiente, la Zamparotti e tutti, che evidentemente non hanno ben letto che cosa dice la direttiva Bolkestein. Altra cosa, questo provvedimento non riguarda le spiagge, cioè questo è bene dirlo, perché c'è scritto articolo 3,1 lettera A, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Questo riguarda solo piccolissime porzioni del demanio marittimo che sono già oggetto di un legittimo titolo edilizio. Quindi non stiamo né cementificando, perché comunque sia, anche per fare modifiche o nuove costruzioni bisogna farle nel rispetto della normativa urbanistica esistente. Allora, ma visto che il diritto di superficie, appunto, come lei giustamente precisava, si costituirebbe sugli arenili non edificati, queste zone non si edificherebbero quindi in maniera selvaggia, no, come rilevano le associazioni degli ambientalisti? Assolutamente, è una fesseria totale, mi scusi la forzatura. No, perché se uno si legge per bene il testo, si rende conto che non solo il rischio di cementificazione non esiste per legge, ma è previsto in maniera esplicita che tutti quei manufatti che si troveranno poi ad insistere su queste piccole porzioni di demanio, che verranno verificati non avere un titolo edilizio valido, verranno espropriati, quindi fatti proprio poi dal demanio, e abbattuti a spese di chi ha attualmente la concessione. Quindi ci sarà anche una sorta di pulizia di tutto ciò che è stato costruito in spregio alle normative urbanistiche, quindi l'esatto opposto del terrorismo mediatico che stanno facendo. Benissimo, allora speriamo di non averlo fatto anche noi questa mattina, abbiamo sentito un po' tutte le posizioni differenti. Ma non è che cercavo un complimento, ci mancherebbe, onorevole Pini, guardi, anche ci rimangono pochi minuti di trasmissione, andiamo alla sostanza che forse è meglio. Detto questo, visto che probabilmente il governo farà delle modifiche, perché il tetto dei 90 anni appunto è un tetto che va superato per tutti i rilievi di cui abbiamo parlato dall'inizio della trasmissione, quale tetto temporale vi andrebbe bene? Ma guardi, io il tetto temporale è un fatto in questo momento secondario? Di negoziazione, è un di cui, come si suol dire, perché richiamo quello che è già successo nel decreto fatto dal ministro Calderoli, quando le attuali concessioni sono state prorogate tutte al 2015. Quello era l'obiettivo, cioè 2015. Poi nell'emanazione del decreto il presidente Napolitano correttamente disse, ma insomma, visto che è una proroga, le proroghe non dovrebbero di prassi superare quello che è la durata naturale della legislatura in corso, io non ve lo firmo un decreto, questo insomma fu un po' a grandi linee quello che venne fuori dalla trattativa, io non ve lo firmo un decreto che va oltre la scadenza naturale di questa legislatura, se poi il Parlamento che è sovrano lo vuole prolungare ulteriormente, questo accadrà. E effettivamente questo fu quello che accadde al momento, perché il decreto uscì con 2012 anziché 2015 e in fase di conversione venne riportata poi la data inizialmente prevista del 2015. Penso, immagino che succeda alla fine la stessa cosa. Che il presidente Napolitano faccia dei rilievi che sono nelle sue prerogative, di un'attenzione magari particolare alla armonizzazione con quelle che sono le durate delle concessioni negli altri stati membri, che comunque hanno ci fa qualche esempio, visto che so che lei conosce molto bene la normativa anche europea, insomma la situazione europea, qualche altro esempio, perché l'episodio francese che ho raccontato all'inizio era suo. Sì, le concessioni più lunghe sono quelle trentennali in Francia, però c'è da dire che in Francia non c'è un solo bagnino che è proprietario di neanche un metro quadro di un chiosco, anzi i gestori in Francia anche hanno concessioni trentennali, ma non gli è mai stato dato la possibilità di fare proprie dei manufatti, tant'è che non solo i manufatti ma anche i beni strumentali che utilizzano, perché se gli si rompe un frigo viene lo Stato insomma, a cambiare. Comunque tutta una situazione della quale ancora parleremo a lungo, perché oggi sapremo più o meno intanto come verrà modificato il tetto e se verranno introdotte anche altre modifiche. Io volevo concludere con una considerazione di un ascoltatore di Catania che però deve essere telegrafico. Luis, buongiorno, perché dice che abbiamo dato delle informazioni non corrette, perché io prima ho detto ovviamente che l'altra contestazione grossa che ai gestori degli stabilimenti viene mossa e che pagano appunto molto poco allo Stato per ovviamente avere la gestione di tratti bellissimi di spiaggia, magari mettere lì un sacco di cabine, guadagnarci un bel po' durante tutta la stagione. Però Luis dice giustamente, completate l'informazione, dite anche che pago le tasse. Peraltro l'esercizio del diritto di superficie per i 90 anni verrebbe concesso se tutti quanti sono in regola con il fisco e con la previdenza. Anche su questo punto la norma è molto precisa. Luis, in 30 secondi, poi saluto tutti. Allora, io sono direttore di uno stabilimento a Catania, che è uno dei più grandi d'Italia, 70.000 metri quadrati, esiste dal 1936, paga 1,60 euro metro quadrato, che penso quello che si paga in tutta Italia, 1,80 euro, quindi sono 70.000 euro l'anno, ma per tre mesi, e poi ci sono 80-90.000 euro di TARSU, tasse, eccetera, eccetera. Morale, come qua parlano tutti, sembra che lo Stato vi regali chissà che cosa, invece voi dice io ci pago. Noi ogni anno pizziamo 50-60 mila euro se non riusciamo a vendere tutte le cabine. Vabbè. Come negli ultimi anni ci sono state delle crisi, diciamo, sappiamo, conosciamo tutti, è normale che non è così come si vuole far di più. Va bene, abbiamo capito, Luis, la ringrazio. Devo chiudere purtroppo perché non ho più tempo, però ringrazio molto per essere stati con noi Sebastiano Venneri, Renato Papagni, che poi non sono riuscita a far replicare, però insomma l'avevo fatto parlare un bel po' all'inizio, Elisabetta Zamparuti che ci ha lasciato, Gianluca Pini. Io ringrazio anche per la collaborazione Franco Piantanida e Alessandro Marco Turli per l'assistenza in redazione, Carmelo Lauricelli in assistenza tecnica. Purtroppo per voi ci sono anche domani mattina da Deborah Rosciani, però torno anche a Salvadanaio alle 12 più tardi. 9 in punto.